Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Qua in comunità ho scoperto uno sport e il bello di fare parte di una squadra. Piano piano spero di arrivare alla fine della comunità e alla fine della maratona di New York. L'unica corsa che facevo era la fuga da me stessa, altro che maratona di New York. Sono Giordano, vivo a San Patrignano. Sono Sara, vivo a San Patrignano da 4 anni. A 17 anni sono entrata in comunità. Nonostante mi fossi laureata e avessi un lavoro, c'era qualcosa in me che non andava. In realtà avevo già toccato il fondo da un po'. Fuggivo dai miei problemi grazie all'eroina. Ho scoperto la passione per la corsa e il 2 novembre sarò a New York per la maratona. Ad aiutarmi molto in questo cammino è stata la scoperta di una nuova passione, quella per la corsa. E il 2 novembre coronerò il sogno di correre la maratona di New York. Era l'istante più felice della mia vita e non me ne rendevo conto. Se l'avessi capito, se allora l'avessi capito, avrei forse potuto preservare quell'attimo e le cose, chissà, sarebbero andate diversamente. Sì, se avessi intuito che quello era l'istante più felice della mia vita, non mi sarei lasciato sfuggire una felicità così grande per nulla al mondo. Orhan Pamuk, il Museo dell'Innocenza. Mi sa tanto che stamattina ho trovato un modo per riprodurre questo momento che vi ho appena letto e che avevo già letto, tratto dal Museo dell'Innocenza, appunto, senza dover per forza essere un personaggio di un libro turco. È semplicissimo. Uscite di casa e correte più forte che potete, senza pensare a niente. Quando siete stanchi, non mollate, continuate dritto, guardando solo dove poggiate i piedi. A un certo punto la fatica diventa dolore, poi il fiato si rompe e c'è un leggero sollievo. Ecco, a quel punto non mollate, continuate e tenetevi forte, aggrappate l'aria con le braccia. A un certo punto non ce la farete più. Se riuscite, continuate ancora. E nella speranza che ci sia un prato nei dintorni, quando le gambe ormai girano a vuoto e la testa è leggera, buttatevi giù. Se siete ancora vivi, respirate. Respirate ancora un po'. Ecco, un attimo dopo che l'ossigeno avrà raggiunto i vostri polmoni, ma un attimo prima che sia arrivato al cervello, quello vi sembrerà l'istante più felice della vostra vita. Poi passa, ma in quel momento è proprio così. Buongiorno a tutti, buon venerdì a tutti soprattutto. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi siete qui. Ogni giorno in questo programma noi raccontiamo una storia. Oggi facciamo una piccola eccezione. Oggi ne raccontiamo due. Sono le storie di due persone, sono Sara e Giordano, che hanno avuto una vita complicata, che si è complicata o che si sono complicate. Ce lo racconteranno meglio loro. E sono finite in una comunità di recupero. Ora il loro percorso sta continuando, fanno delle attività ben precise. E una lavora nella cantina della comunità, che è San Patrignano, l'altra lavora nel centro invece sanitario di San Patrignano. Però loro soprattutto fanno parte di una squadra, che è la running team della comunità, che li porterà praticamente tra due giorni a correre la maratona di New York il 2 di novembre. E visto che per delle ragioni molto strane che non vi sto a spiegare, perché non siamo Radio DJ e non parliamo di corsa, giusto Paolino? Anche se tu vai a correre la DJ 10, lo so, e non fare finta di niente, noi non parleremo di corsa, però semplicemente per delle ragioni particolari ci sarò anch'io là. Parto praticamente questa sera, arrivo domani e non so come, domenica cercherò di correre questa maratona, che è la prima che faccio e che, per la quale non mi sento particolarmente preparato, ma ovviamente non molleremo. 349-238-6666, se semplicemente volete condividere con noi quali sono i vostri tempi in maniera laica, mi raccomando, e se avete mai corso la maratona e se avete qualche consiglio da darci. La storia di oggi però, appunto, le storie di Sara e di Giordano parlano incidentalmente della corsa, parlano in realtà di due persone che hanno avuto degli inciampi nella loro vita e lentamente se ne stanno tirando fuori. E la corsa e il percorso che stanno facendo e il percorso che attraversa tutti i cinque distretti di New York fa parte di quella strada grazie alla quale si stanno liberando di quella roba brutta che è la droga. Come diceva qualcuno prima di me, droga brutto, droga brutto, droga brutto. 349-238-6666, Sara e Giordano e la maratona di New York. L'unica corsa che facevo era la fuga da me stessa, altro che maratona di New York. Sara, a San Patrignano da quasi 4 anni, sa bene che cosa significhi stare male con se stessi. Qualsiasi cosa ho fatto nella mia vita, dice, l'ho fatta in maniera squilibrata. Prima era l'alcol, poi le sostanze, anche se in maniera saltuaria. Poi, non appena presa la laurea triennale in economia, iniziai a fare uso di eroina. Me ne andai in Spagna e mi misi insieme ad un eroinomane. Ci cascai con tutte e due i piedi, ma era ciò che volevo. A poco servivano i discorsi di mia madre, che aveva capito tutto e che cercava di farmi ragionare, cercando di farmi aprire gli occhi. Mia mamma aveva capito che in me c'era qualcosa che non andava, però la prendeva alla larga, voleva che ci arrivassi da sola. Per questo cercava di mettere in luce quello che era diventato il mio mondo, fatto di droga, brutte amicizie, bugie continue. Peccato che a me non interessava, però la sentivo sempre al mio fianco, finché, alla mia ennesima caduta, mi disse che o mi facevo aiutare o non ci sarebbe più stata. Fu in quel momento che capii che non potevo continuare così e decisi di farmi aiutare. Al ritorno dalla Spagna, a 26 anni, Sara inizia a lavorare come responsabile in un negozio di abbigliamento, ma ci mette poco a fare un buco economico di qualche migliaia di euro. La madre decide di aiutarla, all'unica condizione che si faccia aiutare. Entra così in comunità. Anche qui però inizio ad esagerare con la corsa sul tapis roulant per far fronte ai miei problemi di cibo. Era l'ennesima fuga da me stessa. Poi però, iniziando a correre all'aperto, inizio a capire quanto sia importante accettarmi così come sono e comincio a far fronte anche ai miei problemi di alimentazione. Diventa un modo per scaricarmi, che ora mi regala un'opportunità unica. Tra l'altro, mi avevano detto che potevo entrare in una squadra, ma che non avrei fatto tante gare, visto che prima di me c'erano già altri ragazzi. Invece, a causa di qualche infortunio, eccomi qui, a sognare New York e a correre, non a fuggire. Indossa un camice bianco con dei bordini azzurri, Sara, nella foto che ci ha mandato e che trovate ovviamente sul nostro sito anche oggi alla pagina di Voi Siete Qui. Ha i capelli, direi a caschetto, no, forse è sbagliato, però ha i capelli castani corti e ha uno splendido sorriso. Pronto Sara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, come stai? Bene, bene, molto bene. Sei pronta per la maratona? Prontissima. Senti, dai. Oggi è venerdì, la maratona è domenica, giusto? Quindi praticamente 2 giorni. Sì, esatto. Da quant'è che ti alleni? Vabbè, in realtà non è tantissimo tempo che ho iniziato a fare allenamenti intensivi, sono circa 3 mesi. Ah, vabbè, guarda, sono nella tua stessa condizione. Io ho cominciato a metà giugno e quindi arriverò lì, diciamo, col collo abbastanza tirato. Per capirci, qual è stato l'allenamento più lungo che hai fatto? E ho fatto una 30 chilometri a Parma qualche tempo fa. Ecco, perfetto, io ho fatto solo 25, quindi sono messo perfetto, molto peggio. Sono messo molto peggio. Quanto tempo ci hai messo a fare i 30 chilometri? Allora, 2 ore e 43 minuti. Quindi sei, cioè, in quanto pensi di fare la maratona, che ricordiamo per chi magari non lo sapesse, sono 42 chilometri e 195, giusto? Sì. 42-195, sì. Quanto pensi di farla? Beh, in realtà non mi sono prefissata un obiettivo di tempo, perché in realtà questa è più la sfida di finirla che una sfida di tempo. Sì, sì, certo, è più la porto a termine piuttosto che batto il mio tempo migliore, che ancora non sai qual è. Come hai cominciato a correre? In comunità, immagino, no? Sì, esatto, ho iniziato a correre quando sono entrata in comunità, in realtà ho iniziato appunto sul tapis roulant in palestra per far fronte appunto a un problema alimentare che mi assillava. Okay. In realtà poi quando ho iniziato a uscire e a godermi la corsa per quello che era e non come un bruciacalorie, ho iniziato veramente ad appassionarmici E sei qui, insomma, sei pronta a partire. Sara, più o meno, come ti ricordi il periodo in cui eri tossicodipendente, in cui ti facevi? Che memorie hai? Buie, cioè senza voglia di vivere, senza energie, senza mai entusiasmo per nulla. E quanto è durato più o meno? È durato 5 anni all'incirca, però era già da tempo prima anche che comunque non stavo bene, perché in realtà è stato il culmine di un periodo di malessere lungo che durava da tempo. Senti, so che è una domanda che può sembrare stupida, però tu sei riuscita a darti una spiegazione del motivo per cui hai cominciato? Cioè sei riuscita a rispondere alla domanda perché? Sì, vabbè, il motivo per cui ho cominciato a drogarmi era semplicemente che io non avevo più voglia di vivere e probabilmente ho trovato nella droga il modo più veloce, per andare verso quella direzione. Certo. Invece Sara, adesso tu che cosa fai nel centro medico lì in comunità? Allora, io in realtà nel centro medico ci occupiamo appunto di fare le liste per i medici che lavorano all'interno, quindi seguiamo questi medici e in più ci occupiamo anche delle mansioni, per esempio di lavanderia per il reparto di degenza che c'è all'interno della comunità. Perfetto, Sara, io purtroppo devo salutarti, però a questo punto ti do appuntamento domenica. Ci vediamo, spero, sulla linea di partenza, ma soprattutto su quella del traguardo, visto che è molto probabile che tu mi debba aspettare. Vedremo. Se dovessimo darci appuntamento. Grazie mille per la storia e in bocca al lupo. Grazie. Ciao Sara, buona giornata. Ciao. Quando mi hanno detto che andrò a New York, mi sono detto che ne è valsa davvero la pena restare in comunità. Giordano è entrato qui in comunità che non era ancora maggiorenne, costretto dal tribunale dei minori dopo essere stato sorpreso a spacciare. Una storia di droga molto rapida, iniziata a 13 anni con le canne tra amici, per poi vivere una veloce escalation. A 15 anni ero già messo da ridere, dice. Fra cocaina ed eroina, sempre soltanto fumata, ero sempre sotto l'effetto delle sostanze. Quindi l'ingresso forzato in comunità, certo però di andarsene non appena raggiunta la maggiore età. Iniziai a fumare tutti i giorni come se fossero sigarette. Le altre droghe, cocaina ed eroina, arrivarono dopo un annetto e inizialmente mi facevano sentire forte, in grado di affrontare qualsiasi situazione. Poi mi accorsi che erano la mia rovina. Ero sicuro che me ne sarei andato. In comunità non ci volevo stare e non appena raggiunti i 18 anni ho fatto chiamare i miei genitori per comunicare loro la volontà di andarmene. Mi trovai però di fronte a due persone disperate, distrutte per quanto avevo già combinato negli anni precedenti. E allora mi chiesi: ma cosa sto facendo? Così mi convinsi a continuare il percorso. Da allora Giordano si è impegnato sempre di più nel settore della cantina, assumendosi ogni giorno qualche responsabilità in più. E poi, pian piano, ha scoperto la sua passione per la corsa. A casa l'unica attività fisica era il lavoro nei campi assieme a mio nonno, dice. Qua ho scoperto uno sport e il bello di far parte di una squadra. Piano piano spero di arrivare alla fine della comunità e della maratona di New York. Certo che una intera maratona sia comunque più semplice da portare a termine che un percorso in comunità. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare quest'ora che va. Quest'ora che viene che va. Quest'ora che va. Quest'ora che viene che va. Liberi! È in cantina, cioè in cantina intesa non come la cantina di casa sua, ma in una cantina piena di botti con una bella t-shirt rossa che è chiaramente una t-shirt del lavoro. Tiene in mano una bottiglia di vino rosso e la tiene in mano come uno che ne sa, guarda in camera e anche Giordano sorride. Pronto Giordano, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Dai, bene. Come sei preparato? Sei pronto per la maratona? Sì, dai. Il 42 chilometri sono tanti. Sì, quanti ne hai fatti ad oggi? Fino ad ora 30, Ah, come Sara, insomma, avete fatto una preparazione simile. Sì, sì. Ma mi spieghi, la squadra della comunità è una squadra che si allena chiaramente insieme per degli obiettivi che sono delle maratone, quella di New York, ma anche altre, giusto? Sì, anche gare esterne qui in Italia, cioè gare maratone anche qua in Italia, oppure mezze maratone, dipende il nostro allenatore quale evento sceglie. Certo, e in quanti siete? Siamo in 14 persone. E ogni quanto vi allenate? 2-3 volte a settimana? 4 volte a settimana. 4 volte a settimana? Sì, martedì, giovedì, sabato e domenica facciamo i 20 chilometri. Ammazza ragazzi, siete proprio sul pezzo. Senti, tu in quanto pensi di fare la maratona? Perché siccome ci sarò anch'io a New York, lo dicevo prima a Sara, dicevamo magari troviamo il modo per incontrarci alla partenza, farci un saluto, perché ho la sensazione che siete molto più preparati di me. Tu in quanto tempo pensi di farla? La 30 l'ho chiusa in 2:38, il 42 non so che tempo avrò. Spero di fare almeno 4:50, dai. Ricordiamo che hai anche 21 anni però, Giordano, io ne ho 39, quindi... Vediamo un po', il mio obiettivo dai è 4:50, poi vedremo, dai. Giordano, che cosa fai nella cantina della comunità? Nella cantina, io principalmente sto in vigna, Okay. Non sono in cantina perché sono 106 ettari di vigneto e 50 ragazzi. Di cui 40 lavorano in vigna e il resto, i 10 lavora in cantina. Okay. Mi occupo di potatura, e tutti i lavori che ci sono in vigna, dai. Va bene, il dai finale mi piace sempre. Giordano, l'ultima cosa e poi ti saluto. Quanto pensi di rimanere in comunità? Quando finisce il percorso? Diciamo... Dai, dopo la verifica ti spiego, è praticamente la prima volta che vai a casa, poi dipende, se hai la patente scegli il lavoro che vuoi fare, okay. Se no rimani qua e fai la patente e poi piano piano gli operatori che stanno dentro la comunità ti aiutano a trovare un lavoro fuori. E a reinserirti. Giordano, dai, ci vediamo a New York allora. Ok. In bocca al lupo. Ok, grazie. Ciao, grazie. Ciao. E alla fine, dalle storie di Sara e di Giordano, ho capito che, primo, la droga, anche se all'inizio ti fa sentire bene, poi alla lunga ti fa sentire male, molto male. La seconda cosa è che correre, anche se all'inizio ti fa sentire male, molto male, poi alla fine ti fa sentire bene, molto bene. Terzo, la droga mi ha sempre fatto paura, non so perché, e forse è stato meglio così. Quarto, la maratona di New York è un obiettivo che ha un sacco di significati diversi. E soprattutto, quinto, alla maratona di domenica devo assolutamente battere Sara e Giordano. Io ringrazio tutti quelli che agli SMS mi scrivono in bocca al lupo, ma soprattutto quelli che mi scrivono non ce la farai mai. Ringrazio Sara e Giordano che mi hanno fatto capire che insomma vado meglio a farne 30 di chilometri per la preparazione, ma soprattutto vi assicuro che da qui in avanti non parlerò mai più di questa roba della corsa, perché non vogliamo diventare noiosi. Ne abbiamo approfittato solo perché domenica io sono là, loro sono là, e quindi abbiamo fatto 2+2 o 3+3 e abbiamo fatto una puntata. Ma qui chiudiamo. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, grazie a Miriam Lucchetti, grazie soprattutto e ovviamente a Sara e a Giordano. La storia di oggi era la loro, e anche loro sono non uno ma due punti rossi sulla mappa. Sono Miriam, vivo tra Trieste e il resto del mondo. La storia di lunedì è la mia e parla di... avete presente quando ci si innamora dell'unica persona tra tutte di cui non si vorrebbe? Ecco, ci siamo capiti. Questa è la mia storia e io sono qui.